Q10, c'è qualcuno qua su questo canale, cambio. Come al solito non c'è nessuno, Natali. Non c'è nessuno. Ciao Gianfra, buonasera. Già ci sei tu che mi capisci. Ma io lo so che c'eri. Ti vedo quando ci sei, lo sai, no? Non sente più Giulio. Che è successo? Niente, stamattina stavo parlando con lui, già c'era già. Magari la sera o non ne ha voglia, magari, non lo so. Comunque stamattina stavo parlando con lui, ci abbiamo fatto una bella chiacchierata. Adesso ad esempio c'è questa forte propagazione con segnali forti, che dà un po' fastidio. Poi, basta fare che mi è venuto il raffreddore. Porca miseria, roba da matti. Stamattina c'era un po' di caldo, un po' di freddo, un po' di caldo, un po' di freddo. E mi hanno detto che anche piovuto. Ma questo non lo so, io sono uscito presto a portare il cane, però dopo non sono più uscito perché mia moglie non si sentiva tanto bene. Allora sono dovuto rimanere qua. Che abbia piovuto non te lo so dire. Sì, sì, ha piovuto. Intorno, sono state le 9, 9:30, una cosa del genere. Così di colpo, la solita nuvola di Fantuzzi. È tempo strano, veramente. C'è caldo, poi di colpo scende la temperatura. Chi ne capisce, bravo. Allora, Natalie, di ex non hai fatto. Tu, e cosa di ex, mamma mia? No, non è che ne ho tanta voglia, no? Prima già me li facevo, i DX. E anche ascoltavo molto prima, facevo quei diplomi con i radioamatori, come SWL, ne ho fatto 3 o 4 di quelli, dei radioamatori ferrovieri. Insomma, già mi divertivo prima quando ero in campagna, adesso... Non c'è più voglia, no, Natali. Non c'è più voglia. Anch'io ho tanti apparati spenti. Non sto accendendo, l'unico che accendo è questo, che tra l'altro c'è anche il microfono da palmo, che è il più piccolino, per modo di dire, però è così quello che può rimanere sempre in ascolto, però non ce ne voglia. Anche tutti gli altri sono accesi, ci sono tante radio che ne non accendo da molto. È tutta roba nuova, dell'anno scorso, in parte di quest'anno. Infatti adesso inizio a smaltire l'ultimo che mi è rimasto, devo solo pensare a dove darlo, perché non ne faccio più niente. E che cosa è, Gianfranco? È uno grande, un TS2000, HF, VHF, VHF già lo conosci, è abbastanza famoso. Solo che non se lo va a prendere, perché sai, io diverso, qua non ero capito. A Sassa è raro che dia qualcosa, a parte quelli che do a regalo, ma gli altri li mando in continente. Quando devo comprare qualcosa, so che c'ho tutto, capito? Ho finito le cose da comprare. L'unica cosa che mi serve non ce l'hanno qua in Italia, quindi mi toccherebbe mandarlo all'estero e chissà come arriva. Ma oh, yeah. Se hai qualcosa da regalare, regala a me. Oh, yeah. Caspizzina, cosa vuoi che ti dica? Purtroppo, infatti, se hai tanta cosa, ma io non avrei speso più nulla per quello che c'è, Gianfra. Sì, vabbè, ma sono tutti, no, sono tutti apparecchi particolari, capito? Non è roba, guarda, il TS2000, che fino a qualche anno fa era ancora in vendita, è quasi sempre spento, cioè è sempre spento perché usato veramente poco, gli altri lo stesso, anche per le altre frequenze sono sempre spinti, hanno ognuno la sua antenna e sono tanti, però oramai abbiamo capito che la cosa sta sciamando, sta andando e diminuendo, capito? E vabbè. Lo so, tu pensa, un amico mio, Salvatore, si chiama, quello era patentato, siccome lui non aveva possibilità di antenna, saliva a casa mia a farsi di ex, si faceva porco. Allora cosa vuol dire a porco? Io avevo l'antenna e la radio, e lui veniva e si faceva i DX, si metteva al computer, c'era tutto col cluster, e lui si faceva beffa Salvatore. Lo so, anche qua la zona è molto buona, perché da qua parlavo con cosa adesso non mi viene il nome, che a Olbia in diretta, poi qua accendi, fa una chiamata, ti rispondono subito i russi, molte cose, però non ti attira più, capito, un periodo giusto a 27, perché non c'è impegno, non devi neanche stare lì in attesa che ti rispondano, metterti in fila come se stessi comprando chissà che cosa, capito? Qua in 27 è comodo, perché passi da una parte all'altra, così dici ciao e monta al secchio. Di là, una volta che sei dentro una ruota, devi aspettare che finiscano i passaggi e poi fare tutta la tiritera, capito? È una cosa un po' lunga. E lì diciamo è più facile, vai a colpo sicuro col cluster, sai chi c'è, chi non c'è, non è come la 27, è tutta una cosa diversa. Molte volte lo aiutavo io, stavo al computer e lui chiamava. Oh, era di lusso proprio, ci divertivamo un sacco con Salvatore, veniva a casa lui. Poi una volta gli ho fatto la multibanda lì, però era più corta della mia, gli mancavano gli 80 a lui, arrivava fino ai 40 e non c'è più venuto dalla volta che ha avuto l'antenna, via. Ma è anziano? No, è giovane, mica è quello che c'aveva la moto grossa, adesso non mi ricordo il cognome, aspetta, il nominativo era come quello di Claudio, allora, si chiamava... Non mi ammento manco questo di Claudio, vabbè là, comunque Salvatore si chiama, e c'ha una moto grossa, c'avevo. Adesso sono da tanto che non lo vedo, mica era un tipo grasso. Non li conosco, no, sono abbastanza oramai, poi sono fuori, tra l'altro molti anziani non ci sono più, quindi non me li ricordo più, ho perduto proprio... come si dice, la nostra neanche del tempo di questa gente, se li vedo neanche li riconosco, ti dirò, e così purtroppo è nata lì, se ne passa la voglia, quindi gli apparati rimangono fermi in un modo o nell'altro. Mi lo conosce bene Roberto, lo conosce bene, perché Salvatore è il figliuccio del padre di Roberto, quindi si conoscono bene. Quando sento a Roberto glielo dico il cognome, così ti dico il cognome e via. Sicuramente lo conoscerà, stava sempre in famiglia, aveva una macchina grigia, aveva lui una Ford, aveva. E lui parlava da questa macchina, si metteva al 140 lì in macchina con l'antenna di quelle, con gli chili intercambiabili, cavolo, si faceva di ex pure dalla macchina. No, vabbè, i cognomi non si dovrebbero mai dire in radio, comunque non è una cosa che si fa, ecco, senza il permesso altrui. E poi, tanto anche se ci ho parlato, oramai sono talmente distante che non li riconosco più, capito? Giusto i vecchi di tanto tempo, ma gli altri che conosco, c'è poco interesse, capito, Natali, oramai. Sì, infatti, anche Claudio lo conosce, hanno fatto il cambio del nome nativo perché erano tutte e due W0 e hanno fatto il cambio del nome nativo assieme, capito, Claudio lo sa chi è. Io qua non ti posso dire nulla, però lui al telefono magari te lo può dire, Claudio. Sì, vabbè, ma non son cose che mi interessano, ecco, Natali, capito? Molti proprio non li conosco neanche per sbaglio. Sia io sia Claudio oramai ci siamo allontanati da quel mondo, io perché facevo tutt'altra cosa, quindi non c'ho sia come apparati sia come stazione, no? C'avevo e c'ho passioni diverse, la mia è dedicata a un certo tipo d'ascolto e a certe trasmissioni, non sono né un DXR mai fatto, se no avrei potuto mettere tutte le direttive che volevo, lineare a go-go e cose del genere, invece ne uno solo lineare che è spento da sarà un anno, nuovo praticamente, e niente, quindi insomma non faccio cose diverse con parole povere. Sì, infatti lui era appassionato di DX. Se lo vedi, una macchinetta in inglese, era bravissimo. Sì, vabbè. Oi. Ma tutt'oggi credo che lì non ci sia più nessuno. Perlomeno i ponti mi sa che sono quasi sempre vuoti. E io non sto neanche più facendo ascolto, neanche per sbaglio. Quindi, tutto lì. E così nada lì. Lo so, se uno ha altre cose, altre passioni, là, è logico che non basica più, gli passa anche la fantasia. Se c'è tutti quegli apparati tutti spenti, già te credo. Ma eppure la mia non si può certo definire una stazioncina, capito? Non c'è l'apparecchio, l'antenna, per quanto possa essere direttiva, eccetera. Qua ci sono la bellezza di quattro antenne HF, tutte grandi, di cui veri poli, di un numero che neanche io mi ricordo, di antenne VHF, UHF, una che è qua sulla finestra addirittura, che è per le trasmissioni satellitari, che ancora è da piazzare, ma proprio guarda, tu pensa che c'ho la bellezza di quattro commutatori, di cui due con portata 6+6, quindi 6 antenne più 6 antenne, uno con portata di altre due antenne e un altro con portata per HF di 1, 2, 3, 4, dovevo pure contare di 6+6, quindi sono altre 12 antenne, sono tutti occupati, quindi si può immaginare di cosa stiamo parlando. Sì, infatti, me lo posso immaginare, i satelliti si piacevano a un altro amico. una volta eravamo assieme e in un certo posto abbiamo collegato la stazione spaziale. Sì, guarda, da qua con l'antennino l'ascolto la stazione spaziale. Quando in tempo, quando c'era la Cristoforetti che parlava con le scuole, arrivava tranquillamente, poi piano piano andava decadendo perché ovviamente si allontanava. Sì, tutte cose fatte, ma non sono cose, diciamo, vabbè, perché ognuno ha un po' la sua specializzazione, capito? Sì, tu, l'abbiamo costruita quell'antenna per il satellite, io e lui. Abbiamo costruito l'antenna e poi lui perseguitava il satellite con la radio. Di lusso, sì, quante ne ho combinato. Ultimamente pare che ci abbiamo abbandonato anche la portante. Anche quello della portante è scappato da me. E allora si è stancato anche lui, la vecchiaia Carroni. E si sarà stancato anche lui di perseguitarci. Ha capito che non c'aveva molto successo e che poi non faceva niente, ma in più che non gli si dava proprio corda. Quindi sono andato a fare altre cose più utili. Speriamo. Oh, io già siamo messi bene a fare nostalgia anche delle portanti. Infatti, ma te l'immagini che ho il piede difettoso sul capo dell'antenna io. Ah. Vai a buscarla, c'è un piede buono. Sì, i piede buoni te devi far arrivare da fuori. Oramai è tutto un macello. Tra l'altro giorno, dove se non faceva contatto, meno male me ne sono accorto. Ma no, per quello io sono tranquillo, anche se si dovesse staccare, gli apparati sono tutti quelli che hanno la protezione, quindi no, non le fa niente, anche quelli VHF, quando una volta mi ricordo bastavano pochi, mezzo minuto che partiva il finale, adesso queste che sono tutte super protette, no? Proprio prima di bruciare il finale ne devi fare di cose, a parte che entra sempre la protezione e ti avverte, ma anche quelle HF che c'ho, quando c'è qualcosa che non va dicono oh, ti sei dimenticato di collegare l'antenna, ma lo sai quante volte me le dimentico. Anche quello, ma è così. Infatti, fino a questo Giulio mi sta preoccupando. Stamattina c'era e abbiamo fatto anche una bella chiacchierata fino all'ora di pranzo. O non ne ha voglia di entrare la sera? Ma forse sicuramente sta guardando qualcosa. Perché non so se ci siamo partiti, cosa del genere. Più che altro il ciclismo gli piace a lui. Sì, anche a me piaceva, però tra le due cose preferisco sempre farlo, capito? Di guardare gli altri dopo un po' mi fastidisce, la possiamo definire quasi una forma di invidia, capito? Perché dicono ma cosa mi riguarda fare? Io lo devo fare, non devo guardarmeli, a guardare ci sono buoni tutti. Infatti a guardare sì, sono buoni tutti. Mio compare gli piaceva andare in giro con la bici, bravo era. E anche Vittorio lo stesso era bravo. Sì, io ci sono uscito una volta con Vittorio quando aveva smesso da tanto e ci aveva portato un suo collega, non so, un suo amico, siamo andati a fare quella salita lì di coso di per andare a Tirgu, no? Ma l'avessimo fatto questo meno male, andava in palestra, andava in coso un altro po' e ci dobbiamo fermare in salita per raccoglierlo. A Vittoria? No, no, a Vittoria, questo amico che ha portato, capito? Io vado in palestra, io vado qua, io vado là, si è fatto una salita, a momenti ci rimane. Non è così, no, in bicicletta o si è allenato o non fai nulla. Infatti io ho tanti colleghi che la fanno in maniera impegnativa, tra l'altro uno abita vicino, anzi no, tu sei verso la chiesa lì, lui abita in via Rosello, quindi sicuramente non lo conosci. Adesso ogni domenica si fa 50-60 chilometri, si ferma anche al bar con i soliti amici, no? E si prendono qualcosa e poi di nuovo in sella, via. È bello quello lì, eh? È bello per chi c'ha la passione, è bello, sì. Sì, no, io faccio il solitario invece, vado sempre in posti strani, quello ma ci andavo poi io, da quando c'è questa pandemia, anche lì era tutto incasinato, andavo a farmi gli sterrati giù a Monteruglia, tutte quelle cose lì. Ma chissà, piano piano, sai, sono cose che richiedono anche molto, molto, molto tempo. E poi, con tutte queste interruzioni che fai, poi devi ricominciare sempre tutto da capo. Non si finisce mai, Natali. È brutto quello, quando interrompi per forza dopo devi, perché perdi tutto, e devi riniziare da capo, quello è il brutto. Speriamo che sia finita questa disgrazia che ci è capitata tra capo e collo. Ma speriamo. Anche se non mi convince molto questa cosa che stanno facendo in Inghilterra. Sono tutti vaccinati ma hanno terrore, stanno. Loro sono rispettati, noi siamo ancora chiusi praticamente. Cioè loro sono tutti vaccinati. Però non. Forse c'è qualcosa che ancora non sappiamo, qualcosa che ne sta arrivando, perché mi sembra strano, tanta fretta di aprire tutto, invece stanno sospendendo, stanno facendo marcia indietro. Quindi speriamo che non ci abbiamo ragione loro, perché sennò è un guaio. Infatti che non ci sia qualche variante, che il vaccino non agisce su quella variante e succeda il patatrac, io sto sospettando quello. Infatti anche a me i conti non tornano, perché oggi l'ha detto che il governo inglese non fa uscire nessuno, cioè praticamente non puoi fare turismo addirittura, quelli che volevano prenotare li hanno, infatti hanno dovuto interrompere e rientrare subito in Inghilterra, perché se no si beccano non so quanto di quarantena, di questo, di quello. Cioè li stanno bastonando di brutto, quindi nonostante sia una situazione eccellente, perché sono tutti vaccinati oramai, speriamo bene. Dici bene, speriamo, caspittina. Questa è proprio annus horribilis. Purtroppo sì, come dice la regina Elisabetta, che una scena è quella donna, che personaggio, che ha detto che è stato un anno horribilis, ha perduto anche il marito. Sì. quella non è intenzione né di morire né di mollare il regno. È poche tosta. Perché è una cosa particolare, capito? Quelle sono persone che nascono una volta ogni 100 anni. È tremendamente in gamba, ricca, tutto quello che vuoi, però c'è anche uno stile di vita, un coso che non è proprio un'istituzione. È un'istituzione, sicuramente c'è anche tanti dispiaceri, perché i giovani che ha avuto non sono proprio all'altezza di fare quella missione, perché è una missione, cioè la responsabilità di un regno, di una dinastia e della storia anche, quindi non è un compito facile. Poi a quell'età è ancora più difficile, capito? È una persona eccezionale, tutto lì. God save the Queen, proprio. È una persona molto molto amata dagli inglesi. Non solo dagli inglesi, ma penso da oramai un po' tutti, perché da prova di grande passione, di grande anche spirito di abnegazione, perché non è facile mantenere il sangue freddo, ne ha passate tante veramente. Lei è sempre lì, ha conosciuto Churchill nella seconda guerra mondiale, cioè è un pezzo di storia della nostra, di questa e dell'epoca passata anche. Un ottimo esempio. Vabbè. I dispiaceri ce li ha dal nipote, il piccolo, ce li ha dal figlio, da Carlo. Dispiaceri ce li ha avuti, sì, quella donna. Sì, la gente pensa che siano importanti i soldi quando si hanno quegli incarichi, e invece non è così, perché sei praticamente condannato a una vita che non è la tua. Devi fare la vita che ti impone il ruolo, non è una cosa proprio bella, c'hai tanti obblighi, tante formalità a cui devi attenerti, cioè la vita non è più tua, capito? Non c'è la libertà, quindi è un grosso sacrificio che fanno. E molta gente non la capisce, però già è così. C'ha tanti obblighi, tanti impegni. Molti li ha lasciati al figlio, adesso molti, molti impegni, capito? Non si sa neanche se quello riesce ad andare al trono, forse ci va William quando muore la regina. Probabile. Che poi guarda com'è. Comunque è una cosa un po' comune in quella dinastia, diciamo, vedere che queste cose che succedono. No, la brutta figura l'ha fatta il nipote, che se n'è andato a parlare male, sai, si può essere anche in disaccordo, però in quei casi particolari lì bisogna sempre essere fedeli all'istituzione, non è che puoi andare a parlarne male così fuori, poi all'estero, dopo che ti hanno cresciuto, istruito e dovevi avere il tuo comportamento. Non so se te lo ricordi, ma non c'eri ancora, perché stiamo parlando dei primi del Novecento, anche prima, quando c'era la regina Vittoria, il figlio, che era Edoardo settimo, se non ricordo, ottavo dall'ottavo, o settimo ottavo, che era principe di Galles, ne ha combinato di tutti i colori, andava, insomma, si divertiva, dai, parole povere, era un grande festaiolo, eccetera. Poi quando è diventato re, però era anche un bravissimo diplomatico, conosceva tutti, lo zar, tutti, era un grande diplomatico, e quindi a modo suo si era preparato, manteneva i contatti con tutti, quindi era già pronto al regno. Quando è stato al regno ha durato poco perché si è ammalato, ha corso parecchie volte il rischio di morire, e poi è stato considerato uno dei re più in gamba, più tranquilli che l'Inghilterra abbia avuto, molto, molto amato dal popolo. Però da giovane era scavazzacollo anche quello. E quel nipote giovane che c'ha, il più piccolo, è un ribelle lo stesso. Quello è andato a parlare male, ci ha preso una moglie che, diciamo così, non è nobile ed è tutta a modo suo. Quella lì ce l'ha bello abbindolato. Infatti a me dà l'impressione che sia quel tipo di donne che va presso i soldi, capito? Quindi non capisce l'importanza anche dell'esempio, del coso. Quindi se l'ha proprio abbindolato. E allora, quel lì è sempre stato uno scapezzacollo, un ribelle. Se si è vestito da nazista una volta. Sì. Che poi tra di loro poi si, quando queste cose vengono a sapere la regina, si infuria come una iena, perché figurati, lei ci ha combattuto contro i nazisti e si ritrova il nipote che fa lo scemo su certe cose, caspita. Poi è proprio vero, quando ci sono le teste calde. Sì, lui è sempre stato così, una testa calda. Infatti, adesso se n'è andato in America con questa qua, se n'è andato, ha rinunciato a tutti i titoli, tutto quanto, ha visto al funerale che si sono vestiti tutti in abiti civili per non farlo sfigurare. È una questione di etichetta, perché l'hanno voluto bene, ma anche la regina era il suo prediletto, quindi sicuramente avrà sofferto molto di questa cosa. Ma secondo me comunque ne prende una sconsolata, quella è donna che lo frega a lui, vedrai. E che lo frega, l'ha fatto bigli tutto, l'ha già fregato. Quello lì non è più nessuno per il Regno Unito. Probabile. Poi non lo so come se la cava con fratello, se vanno d'accordo o se sono un po' distanti. C'è un attimo il telefono. Avanti. Andiamo bene, andiamo. Certo. Cucca. Gianfrano, prima entra e poi non parla. È andata lì, io mi ero allontanato un attimino. Stai dicendo? Ehi, ha chiamato Luca, io l'ho chiamato ma non mi ha risposto. Perché ero al telefono, che mi ha telefonato mia zia. Ah, ok. No, non so, no, ero un po' distante. E niente. Vabbè, sono appena le 6:13, quando non c'è niente da fare non passa mai il tempo, quando invece devi fare cosa. Giornata noiosa poi, adesso c'è caldo fuori, perlomeno così sembra. Sì, questo tempo gira un po' caldo, un po' freddo, boh. Io stamattina sono uscito presto a portare il cane, no? E siccome mia moglie non si sentiva bene, come ho portato il cane, sono rimasto a casa. È un po' deprimente, non sai. Non sai cosa fare proprio. Boh. Oh, signor. Infatti. Magari Giulio entra più tardi. Entra. E sono già le 6:15. Boh. Ormai sta seguendo qualche film o qualcosa. Claudio si sta occupando della campagna, che già ce n'è da fare, quindi già un bel attento. Ehi, va, diventa in forma, bene, che adesso la moglie l'ha messa a lavoro in corso, lì in campagna c'è sempre da fare, quindi si fa anche il fisico e si abbronza pure. Ah, la bronzatura è certa, quella è garantita, soprattutto con questo tipo di clima. Il clima ti frega perché un po' c'è il sole, quando c'è il sole ti bruci, poi dopo c'è freddo, poi di nuovo spunta il sole. Perché quando non ci sono nuvole il sole scotta parecchio. Tu pensa che abbiamo qua una pattuglia fatta di quel materiale tipo di lamiera, ma fa con la dilatazione, fa un rumore, fa tan tan tan, fresca da subito. E diventerà rovente. Sì, ma io guarda, ho dovuto aprire il portone blindato. Ho dovuto aprire e staccarne alcune leve che servono le serrature superiori, perché si dilatavano e la porta non apriva più, quindi ho dovuto lasciare solo la serratura principale, perché è un disastro. L'estate non lo puoi toccare neanche con le mani, devi stare attento, ti devi ricordare che se lo tocchi ti puoi bruciare, perché ti diventa peggio di un termosifone. Alla faccia. Sì, quando c'è caldo c'è un sole che scotta molto. Poi ogni volta che tagli l'erba piove, sembra quasi una presa per i fondilli, guarda, non imbosso più. E infatti Claudio era incavolato per quello, tagliava l'erba e pioveva. Non c'è solo lui, no? Siamo tutti in questa condizione strana, che sembra che sia iniziata l'estate, quindi devi pulire, invece poi vai, tacchi che sta piovendo. Guarda, io dico che come quest'anno poca gente ha messo mano mattina e sera a disposizione. Uno ha finito poco fa di fare casino con il spugliatore, forse ce l'ha smarmitato, ma è lontanissimo da me, ma fa un casino, è qualcosa di micidiale. E quindi siamo tutti in questa situazione, è un po' strana. E il tempo non è stabile, capito? È per quello. Certo che rompe le scatole quando tu hai fatto bene tutta l'erba e tagliato, no? Dopo un po' brum, piove, cavolo. È logico che ti incavoli. Ma poi cresce subito, è una cosa tremenda, cresce subito veramente. Non è che ti dia il tempo di... la prima pioggia, passano due giorni e ti rivedi i filetti riuscire tranquilli e felici, come che non gli ha fatto niente. Infatti Indu è poco si adirava. Non finiva manco di tagliare l'erba che pioveva subito. Sembra fatta apposta, guarda. Sembra fatta apposta. Ci vuole tanta, tanta, tanta, ma tanta pazienza. Tanta pazienza. A mancano che anche qualcuno te lo puoi fare, però anche lì lo chiami e poi se si... se ricresce sono soldi buttati. Infatti, perché dopo lo devi rifare, ci mette molto a crescere e torna, se piove è un disastro. Saranno quelli che stanno pinacciando, avranno assunto qualche indiano che fa la danza della pioggia. La danza della pioggia. E tanto già, insomma, quelli a prezzi a volte non è che siano molto ricatti, già se li fanno la zurrada, come è successo a Saresco. Lì si vuole i bagagli. È un lavoro duro perché la terra è bassa, però già ci fanno pagare. Sì, ma il lavoro non fa lui, lo fa il trattore, capito? Quindi non è che fatichi più di tanto. Già fatichi anche seduto sul trattore. Sembra così, ma già ti stanchi. Una cosa che non si crede, però. Mi ricordo una volta che avevo chiamato uno per fare la pulizia generale di tutto. Ne ho chiamato uno così, no, a caso. Certo, me ne arriva questo tizio in fuoristrada di quelli, non di quelli da lavoro, di quelli belli costosi. Ha detto, questo è un tipo strano. Ha detto, va, dice a fare quello lì, e mi fa un preventivo. Sì, qua, grande, qua, non ricordo la cifra, ma ha sparato. Ha detto, ma tu sei tutto matto. Ha detto, sì, le farò sapere, sì, arrivederci. Una cifra veramente che, boh, da spararsi. Già lo credo che c'era quella macchina. Ce lo poteva permettere con quello che guadagnava. Ma quello è tipo che per sbaglio chiami una volta che non lo chiami più. Infatti. Ai ai ai. E così, vabbè. Io devo fare qualcosa di col computer, ma non ne ho voglia. Non ne ho voglia proprio. Non lo sto attaccando neanche i cosi di che usavo prima, per vedere un po' se c'è messaggistica, eccetera. E niente, comunque il meteo ha detto che sembrerebbe che adesso arrivi un pochino di caldo, anche se rimane perturbato. Ma c'è anche la stazione meteorologica? No, ma ricevo tutti i bollettini navali, sia per le navi, sia per i cosi lì, sia quelli, sia quelli in onda lunga, sia quelli che danno in caso di tempeste, tutto quanto. Mio fratello interessano quelli navali, e lui è pescatore. E si mette sul canale 68, è continuo praticamente, non finisce mai. Ogni tanto si scassa pure quella stazione. Deve essere su Ausilo forse. Quella che trasmette il bollettino. Sì, che poi è inumana, perché è un robot poi, è una voce sintetizzata di della tipa, c'è una voce di donna, però si sente che è proprio robotica, è tutto automatico, oramai non c'è neanche più gusto ad ascoltarli. Sì, già l'ascoltavo il marino, adesso non ce l'ho più, ce l'avevo, c'ho anche il patentino per quello lì, per il marino. Ah, ecco, in quelli c'è la barca, perché adesso lo rilasciano solo se c'è la barchetta con la iscritta. Sì, c'avevo anche la barca, c'avevo. Ma che vuoi che ti dica? Se vedi quello che ho io qua ti sparo 20, ne ho 3 di barche, credo, tre dovrebbero essere posteggiate, che si stanno frazzingando. Oi, oi. Ma lasciamo perdere. Emilia. Appunto, sai come dicono a Roma, chi c'è denti non c'è il pane, chi c'è il pane non c'è denti. E mio fratello è imbarcato su un peschereccio, capito? Sono lui il principale. Prima ce l'aveva lui il suo. Di quei pescherecci grandi vanno a pesce spada loro. Una vita dura. È una vita dura perché non sempre il mare ti dà quello che deve dare, perché anche lì sta succedendo di tutto di più. E poi con un certo tempo brutto ti trova fuori, insomma, molte sono fissate brutte, un lavoro anche pericoloso. Eh sì, quello è un lavoro che ti consuma e più è pericoloso pure. Il peschereccio che aveva mio fratello c'aveva due motori Volvo Penta da 350 cavalli l'uno. Aurosa, c'aveva anche l'elica davanti, normalmente un po' da svia che si manovrava con un joystick, di quelli moderni. Avevano fatto lì a Fiumicino quel peschereccio. Sì, quella lì ce l'hanno a prua, no? Ma anche come le navi grandi, serve per girare su se stesso se necessario. La usano molto quando fanno manovra in porto. E sono sotto proprio la prua, l'elica di manovra praticamente la chiamano. Sì, infatti, già ne aveva poco strumentazione dentro. C'aveva il telefono, poi cosa non va via, il radar, plotter, di tutto. Oh, c'era Medusi. E vai tu, vai, piedi vella. Ah, vai, come? Ah, sentito la cosa, mi ha detto Gianfra, questo spalliero per vella. È quello perché c'è fuori a zappare, che le sta, che il sole lo sta cucinando anche a lui, vero Claudio? Cucinando no, ma comunque già sto sempre facendo, mi ho finito adesso, ma mi sono seduto un attimo, e poi c'è la radio, i due cuocuomani. Sì, però tu sei più di bella. Beh, però tu sei cuocuomani. E cosa vuoi fare qua? Con questo tempo, quando le fai, arriva la pioggia e te lo distrugge. Inizia a essere una pigliata, come dire, una pigliata in giro, ne stavamo parlando prima a Natalino. Sembra fatta apposta, anche stamane ha piovuto. Quindi, Sì, anche qua ha dato due, ma appena, dai. Ma l'altra volta già avevo tutti i globi dei piantoni dell'illuminazione esterna aperti che dovevo pulire, grazie per tutti pieni d'eva. Sì, accenda due. È un macello, guarda, non si capisce niente. Casino, Vediamo. Vabbè. Kappa. E allora, cosa siete facendo? I vecchi, stiamo facendo i vecchi, ce l'hanno andando. Sì, io l'ho sentito da lontano, c'è la finestra del cavallo aperta, già vi sento, ero lì vicino, già vi sento parlando. Lo possiamo dire, sì, che facciamo i vecchi. Purtroppo ci manca la panchina, su quella ci stiamo lavorando, vero Natalì? E allora, adesso facciamo la panchina, ci sediamo lì. Anche il tavolino, oggi ci facciamo anche la partitina a carte, mi. Vero io, c'ho la panchina, il legno, il tavolino, le sdraie, i lettini, l'ombrellone, il salottino, i vimini per bere la birretta sotto la veranda, c'ho tutto, lo vedo io. Sì, allora siamo a posto. Ma tu non mi racconti giusta qua, perché tu una panchina ci metti i chiodi poi. No, ce ne chiudi, no. Ho quelle panchine belle che ho preso da Conferama, bellissime. Kappa. Vabbè. Già non manca niente qua. Sta bene, ci abbiamo tutto. E beh, il cagnetto come sta? Le piace ora, sì. Si sta sbizzarrendo. È sempre cucca dello giorno, non è tanto mentre tutta la carendi. Si beve una ciotola di acqua, si rinfresca e poi esce di nuovo, esce dentro, mi ha riccato. la brandina, fra un po' esce di nuovo e ci ritroia nell'erba. Ha raggiunto il suo scopo, Filippo, adesso lì già sta bene già. Altro che carbonazie. Sta bene anche il padrone, apro la porta, vai. Quando fai bisogno poi la raccolgo, c'ho una cosa apposita e poi la butto via la mattina. Capito? Allora che noi ci mangio il tangiro a piglia freddo d'inverno. A Broiana, vai, quando rientra poi lo asciugo, ma non ha così il fondietto, no io. Questo è poco ma sicuro, eh. Il mio, oltre che lo porto, poi mi avverte se deve fare la pipì e bisogna che lo faccia scendere. Caspittina, tu devi vedere questo qui. Tu immaginati che per i giorni che è venuto qua, quando è iniziato ad abituarsi, sollevava la gamba, siccome non aveva ancora verniciato il muro interno, tutto bianco, in calcio, eccetera, e quindi le prove, pure l'ho fatto tutto, eccetera. Allora la salita giù si attenderà, che beh, non intendi, no, vai. Allora adesso sai cosa fai, invece sollevare la gamba e fare la pipì nel muro, si la fa come la fanno le donne, capito? Si piega e la fa in terra. Sì, già lo sa lui cosa deve fare, oramai è imparato. No, è sempre nei colpi, già lo sa, tanto a me basta con un zicchino, me lo sa, ma ti fuggi, no, no. Poverino Filippo, che hanno lì la capacchi sui poffà. E allora? La sera ho fatto, lo vedo correndo, andando e torrendo, ho detto, ma allora c'è una ricerca piscicente, stavo perseguitando una lucerta, tu immaginati se un cane di genere può pigliare una lucerta, la giovane aveva quasi la iatta a pigliarla. Sì, ma come vede roba muoversi, gli viene l'istinto di predazione, Ma se lui non prendeva manco mosche a casa, capito, 8 anni, richiuso dentro l'appartamento, e la prima volta che aveva visto le lucerte, le bugia. Sì, va, invece... lì già fa bene e il cane infatti ha bisogno di spazio, di andare, di tornare in casa, soffre in appartamento il cane, capito? Oh, grazie, poi ti do un paio di gatti così li può perseguitare. Guarda, non ce n'è neanche uno perché il mio vicino c'ha due occhiaie, Sergio c'ha un pastore maremmano bellissimo e un bull terrier bellissimo, grandi. Poi Roberto c'ha, l'altro mio vicino c'ha due sempre molossi tipo Filippo, però non mi ricordo la razza, quelli lo stesso, gatti non veneno, manco uno non ci mica ancora. Appunto, quindi ce ne do un paio, tanto i miei già ci fanno d'accordo, sicuramente. Poco dormono, per carità, non fanno nulla la mattina e la sera. Poi le poche volte che si svegliano stanno a rompere le palle con quella specie di ululato, no? A tutte le ore del giorno e anche della notte. Ascolta, Gianfra, io dove c'ho le radio qua, che non è più una sola radio, ma non c'è più niente, sono un paio di radio e basta. Questa è la stanza di Filippo, ok? Adesso c'è la brandina fuori con il materassino fuori perché le piace mettergli al sole, il plaid quello leggero per coprirlo, e poi c'è un piumone che faccio in quattro che glielo metto sopra là il materassino. Quando io le preparo tutto a letto la notte, lui entra e si corica. Allora sai che ora si rimbeccia un manzano? Ah, alle 10 e un quarto. Oppure, se sta facendo la pipì, si alza, va alla porta, fa la pipì, rientra nella sua stanza e si corica. Bella così la vita, no? Però Natalie. E allora, la vita di Michela. La sera dopo cena saranno le 9, 9 e mezza, le 10, si mette lì sotto la TV che c'è un altro materassino piccolino e sta un po' insieme a noi. Quando si stufa, te saluto, piglia anche, se ne va nella cameretta sua, si addormenta, tu quel valisci i tuoi piatti e dove intendi solo sul ragà. Ah, perché tu sa pure. Ah, russa? No, no. È un calcio, non glielo dai ogni tanto. No, è così, lui è così, molti sono così, c'ha il cervello sotto il naso, capito? Sta la bocca aperta, tutto, puliamo tutto, è un lavoro, è sempre un lavoro tenere il cane dentro casa, perché lui è abituato a stare dentro. Potrei farle anche la sua stanzetta, che è anche più grande, c'è una bella stanza grande nel Carverio, che è da finire, però lui non ci sta da solo. Assolutamente. Infatti, qua la notte da noi da anni oramai viene la volpe a mangiare, ma